Benvenute e benvenuti alla quinta puntata di Sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione di Facciamo Breccia. Potete trovare informazioni su Facciamo Breccia al sito internet www.facciamobreccia.org e andiamo in onda tutti i mercoledì sera dalle 20:15 su Radio Onda Rossa. Il tema di questa sera lo capirete a partire da questo appello che sto per leggere. Manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne. L'assemblea di singole donne di realtà associative femminili, femministe e lesbiche provenienti da tutta Italia che si sono riunite in assemblea pubblica domenica 21 ottobre a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne, sulla base dell'appello diffuso dal sito controviolenzadonne.org in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, convoca una manifestazione nazionale a Roma sabato 24 novembre 2007 alle ore 14. Le donne denunciano le continue violenze e gli assassini che avvengono in contesti familiari da parte di padri, fidanzati, mariti, ex e conoscenti. È una storia senza fine che continua a passare come devianza di singoli, mentre la violenza contro le donne avviene principalmente all'interno del nucleo familiare dove si strutturano i rapporti di potere e di dipendenza. Ricordiamo che l'aggressività maschile è stata riconosciuta, dati ONU, come la prima causa di morte e di invalidità permanente per le donne di tutto il mondo. Il tema, soprattutto in Italia, continua a essere trattato dai mezzi di informazione come cronaca pura, avallando la tesi che sia qualcosa di ineluttabile, mentre si tratta di un grave arretramento della relazione uomo-donna. La violenza contro le donne non deve essere ricondotta, come si sostiene da più parti, a un problema di sicurezza delle città o di ordine pubblico. La violenza maschile non conosce differenze di classe, etnia, cultura, religione, appartenenza politica. Denunciamo la specifica violenza contro le lesbiche volta a imporre un modello unico eterosessuale. Non vogliamo scorciatoie legislative, quindi provvedimenti di stampo securitario e repressivo. Senza un reale cambiamento culturale e politico che sconfigga una volta per tutte patriarcato e maschilismo, non può esserci salto di civiltà. Scendiamo in piazza e prendiamo la parola per affermare come protagoniste la libertà di decidere delle nostre vite nel pubblico e nel privato. Scendiamo in piazza per ribadire l'autodeterminazione e la forza delle nostre pratiche politiche. Controviolenzadonne.org. Les teenagers fantasment sur le paradis, création commerciale parfaitement réussie. Après étude de produits, le marché est ciblé. Idées et mentalités tarées, arriérés seront les premiers visés. Exciter le mâle et modeler la femelle. La musique fait mal lorsque le business en mêle. Bouge les doigts, baby, quand tu manipules ton kit. Bah, et bien sur ton manche, plus vite qu'il ne faut se leurre. Bouge les doigts, baby, quand tu manipules ton kit. Bah, et bien sur ton manche, plus vite qu'il ne faut se leurre. À la source des mots, à les gritos. Nous inonderons les radios, les télés et les journaux. Crescendo, les d'un musical complot. Et vinceront les stars d'Og Gynéco et Stan Savo dans le plus grand fiasco de rumeurs et d'écho. Les marchés musicaux entre eux se feront la peau finie sans nez. Trop de tous ces congénitaux. La musique est affaire de femmes, goût, baba, ciao. Allez les meufs, on prend la scène. On pourra faire ce que l'on veut. Allez les meufs musiciennes. Un jour on aura raison de. Allez les meufs, finis la peine. On veut ce qu'il y a de mieux. Nous on joue la musique qu'on aime. Thank you. Abbiamo ascoltato le Zarmazones, un gruppo acid jazz hip hop 100% femminile e femminista francese. Elena? Sì, proseguiamo con... Pronto, pronto, sono in linea, sì, proseguiamo, mi senti Monica? Proseguiamo con la lettura di un articolo di Nicoletta di Facciamo Breccia, che a nostro parere è un buon spunto per iniziare la riflessione sulle motivazioni che ci porteranno in piazza il 24 novembre prossimo. L'articolo si intitola Nel nome del padre, anzi della razza. Ne leggerò alcuni stralci, non per intero, ma insomma. Se dico Ina, è immediato associare a questo nome la ragazza pakistana, sgozzata dal padre e seppellita nel giardino della loro casa in provincia di Brescia, nell'agosto del 2006. Ma se invece dico Camilla, non viene in mente nessuna donna in particolare. Eppure Ina e Camilla hanno una storia in comune, giovani coetanee, entrambe sono state uccise dai padri a un anno di distanza, l'una perché aveva disobbedito al potere patriarcale, l'altra perché aveva fatto notare al genitore che fumava troppe sigarette e costui le ha sparato più volte alla schiena, poi è fuggito. È una sera al principio d'ottobre, con alcune amiche discutiamo degli ultimi numerosi omicidi di donne e di come il pacchetto sicurezza alimenti la cultura della paura, nascondendo le vere cause di morte per le donne. Un'amica pakistana, Arifa, mi fa notare che in che modo differente l'informazione abbia trattato gli omicidi di Ina e Camilla. In effetti basta fare un giro in internet per vedere con quali aggettivi sia stato definito il padre di Camilla, professionista, per sottolineare quanto fosse una brava persona, depresso, come a cercare una giustificazione per un gesto così inqualificabile, che diventa raptus improvviso, altro modo per spiegare l'inspiegabile. Invece il padre di Ina è senza dubbio un fondamentalista che voleva imporre alla figlia le proprie tradizioni. Ma cosa cambia per le due figlie? Forse che l'una è morta più felicemente dell'altra? Ciò che conta non è la vita di queste donne, ma la nazionalità dei loro assassini, come in ogni caso di violenza contro le donne. Le donne uccise o stuprate da familiari, parenti, amici italiani, che sono poi la gran parte, meritano solo un trafiletto sui giornali, ma emergono alla ribalta delle cronache se lo stupratore o l'assassino è un immigrato. Assistiamo così quotidianamente alla distorsione razzista di un dramma reale, il femminicidio. E oggi più che mai la logica securitaria, principale produttrice di paura, sfrutta questo gravissimo problema in Italia mai risolto, perché mai realmente affrontato, per rappresentare l'altro, lo straniero, come pericoloso. Eppure i dati dello stesso Ministero dell'Interno parlano chiaro, tra il 2004 e il 2005 è stato rilevato un incremento delle violenze sessuali, distribuito in ugual misura fra maggiore e minore di 14 anni, un incremento delle percosse, delle minacce, delle ingiurie, categoria quest'ultima che comprende anche molestie sessuali. I luoghi privilegiati di queste violenze sono le mura domestiche, innanzitutto è il posto di lavoro. Se poi teniamo conto del fatto che una minima percentuale di donne, poco più del 7, denuncia le violenze subite e che è più facile denunciare la violenza subita da uno sconosciuto che da un familiare, il quadro che ne risulta è impressionante e si discosta ben poco dalla situazione di paesi che ci vengono raccontati come luoghi simbolo della sottomissione femminile. Siamo così sicure di stare bene da queste parti, siamo così sicure che il vero pericolo per le donne sia la strada e soprattutto siamo ancora disposte ad essere ostaggi dello scontro di civiltà? Curiosamente, coloro che alimentano la monocultura dello scontro di civiltà sventolando la libertà femminile nella nostra cultura, a fronte degli integralisti che altrove impongono il velo alle donne perché non inducano al peccato gli uomini provocandoli, o che puniscono le adultere con la lapidazione, sono poi gli stessi che si ergono a giudici della donna che ha subito violenza, colpevolizzandola con l'immancabile se l'è cercata, o vittimizzando così gli stupratori, per i quali ci sarà sempre qualcuno, anche un sindaco, disposto a pagare gli avvocati per difendere il buon nome dei bravi ragazzi o sostenendo che non basterebbero le pietre delle Dolomiti per lapidare le proprie concittadine adultere, gentilini Dixit. Sarebbe più appropriato chiamare questo scontro di civiltà col suo vero nome, rinnovata alleanza fra patriarcati, fra dominatori. Paradossalmente la giustificazione più gettonata da parte di donne e di uomini esperti del settore è che le donne femminicidi siano effetti della crisi del maschio che si vede messo in discussione il proprio ruolo dominante in una società in cui le donne ormai possono tutto. Come se prima del femminismo e della timidissima e del tutto insufficiente emancipazione le donne non subissero violenze, come se la sottomissione fosse una garanzia di tutela e non a sua volta una violenza foriera di violenze. Molte donne ancora oggi parlano con voce sommessa nella speranza che ciò dissuada il fidanzato, il marito, dall'usare violenza e non capiscono, o capiscono troppo tardi, che quella è già una forma di violenza in cui si piegano e che a quella violenza ne seguiranno altre, in crescendo. Questo avviene in molte case, in molte famiglie, in molte relazioni, fino alla torsione completa di sé, quando una donna dice a se stessa mi picchia perché mi ama, mi stupra perché mi desidera, o si attribuisce la responsabilità del comportamento violento dell'altro, scagionandolo ogni volta, fino a diventare prigioniera di una dinamica sempre più pericolosamente irreversibile. Questa è la realtà dei fatti, queste sono le dinamiche che nel terzo millennio ancora avvengono nelle case italiane. Ma nel nome della razza e della sicurezza tutto ciò viene nascosto e nel nome del padre anche una brava ragazza, l'ennesima donna, viene uccisa senza più neppure far notizia. Abbiamo voluto cominciare con questo articolo di Nicoletta che ci sembra introduca bene il clima di questi giorni, anche se l'articolo è stato scritto qualche tempo fa, prima della morte di Giovanna Reggiani e prima della rappresaglia istituzionale di questi giorni. Tra poco abbiamo una corrispondenza con Nicoletta, ma la vogliamo prima sentire un brano di musica, un brano molto famoso, spagnolo, che ci fa capire forse quanto in Spagna si dibatte di questo tema, Malo Eres. Guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. La penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. Cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Allora siamo al telefono con Nicoletta di Facciamo Breccia e delle Mastate Zitte di Milano. Ciao Nicoletta. Ciao Elena. E volevamo continuare con te il discorso sul tema della violenza contro le donne, ma cercando di capire cosa sta succedendo nell'utilizzo anche un po' sporco che di questo tema si fa all'interno di questa deriva securitaria a cui stiamo assistendo nel nostro paese. Ora, non solo per i fatti degli ultimi giorni, per il caso di Giovanna Reggiani, ma purtroppo era un tema a cui già ci stavamo abituando. Sì, io devo dirti che la chiamerei col suo nome e più che deriva securitaria la chiamerei definitivamente deriva fascista, nel senso che, guarda caso, esattamente come il tema della violenza contro le donne viene utilizzato per sdoganare il pacchetto sicurezza, che è appunto fatto di decreti fondamentalmente repressivi, allo stesso modo in questi giorni si stanno muovendo gli aderenti a gruppi di estrema destra, a partire da Forza Nuova, dicendo giù le mani dalle nostre donne. Addirittura Forza Nuova ha messo in giro un volantino dove c'è scritto che una donna, questa Giovanna Reggiani, che ha vissuto questa terribile violenza ed è stata ammazzata, comunque insomma una donna è stata ammazzata e violentata dai Rom, cioè dall'intero popolo Rom. Allora io credo che questo renda ormai chiaro che non c'è più assolutamente alcuna differenza tra le logiche di questo governo e le logiche della destra più estrema. Addirittura il vice sindaco di Milano, che come io continuo a dire è da oltre 10 anni il vero sindaco di Milano ed è un fascistone decorato, ha anche dichiarato che insomma perfino gli immigrati che non fanno nulla di male, che però si ritrovano per mangiare tra loro in luoghi pubblici e passare del tempo, sostanzialmente fanno paura e danno fastidio. Quindi appunto l'immigrato deve venire qua in Italia per lavorare, per produrre profitto, ma non ha nemmeno più il diritto di mangiare. Allora io credo che veramente stiamo andando dritti verso la riapertura delle camere a gas, e che questo schifoso governo di centrosinistra fosse ben poco di sinistra l'avevamo già capito, però ecco, non si tratta più ormai di uno sdoganamento dell'ideologia di destra, cioè siamo all'applicazione proprio dell'ideologia fascista. E giustamente a me, come a tante altre compagne, fa incazzare profondamente che le donne vengano usate per proprio per confermare, per legittimare ancora una volta questa ideologia, innanzitutto perché noi non siamo e non vogliamo vederci né come vittime né come potenziali vittime, ma quello che ci interessa è da una parte organizzare l'autodifesa delle donne, tra donne, e dall'altra incominciare anche a nominare le complicità che le donne hanno con delle forme di violenza, in particolare all'interno della famiglia e all'interno delle relazioni, che chiamare relazioni d'amore quando una donna viene picchiata mi fa molta specie, però diciamo all'interno di quel tipo delle relazioni di coppia, ecco. Questo quindi secondo me è il quadro. Io veramente non parlerei più davvero di deriva securitaria, siamo di fronte alla deriva fascista. Proprio qualche giorno fa, rispetto a quello che alle dichiarazioni che Veltroni aveva fatto proprio immediatamente dopo la morte di Giovanna Reggiani, ho detto appunto a questo punto, visto che lui sostiene che Roma è sempre stata una città tranquilla e senza violenze, quindi cancellando in un attimo anche solo l'enorme quantità di aggressioni fasciste e l'omicidio di Renato Biagetti, cioè tutta questa violenza fascista che c'è stata, è stata cancellata da Veltroni per invece additare in senso razziale, non razzista, ma proprio razziale, cioè rendendo razza una popolazione. E allora quello che io mi chiedevo ragionando era forse gli fanno comodo questi squadristi, perché gli danno una mano proprio nella sua logica securitaria. Sì, penso, sembra un po' che vada così in effetti. E infatti il fatto che oggi tutta una serie di partiti, da Forza Italia ad AN, dicano sì, ma non esageriamo, non facciamoci giustizia da soli, ma l'hanno sempre fatta passare questa logica. Cioè, devo dire che a me, pur nel suo orrore, nel disgusto che mi provoca, mi sembra molto più sincero e coerente un Calderoli che dice no, invece andiamo avanti con la giustizia sommaria del fatto fai da te, che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè almeno ha il coraggio di rivendicarlo, non sali incravattato, no? Quello che si mette la cravatta per avere una faccia presentabile e poi appunto fa lo squadrismo insieme alle camicie verdi o alle camicie nere, mentre gli altri stanno cercando esattamente di fare questa cosa. Ora con tutta la mappatura recente che è emersa di delle organizzazioni neofasciste e anche paramilitari di destra nell'Italia del centro-nord, dove si parla di 15.000 persone tra iscritti, simpatizzanti, fiancheggiatori eccetera, capisci che ci troviamo di fronte a una pesantissima svolta storica, svolta in cui appunto c'è stata una forte legittimazione da parte di questo governo e se ne deve assumere tutte le responsabilità. Sì. Senti, in merito a tutto quello che sta succedendo in questi giorni, a come viene strumentalizzato il tema della violenza contro le donne, come pensi che si debba porre la manifestazione del 24 novembre? Ma io penso che intanto si sia già posta bene quella manifestazione, perché le compagne che ci stanno lavorando a Roma so che hanno fatto una bella azione la scorsa settimana proprio quando è incominciata la rappresaglia istituzionale, perché non si può chiamare altrimenti, nei confronti dei romeni e delle baraccopoli in cui sono costretti a vivere, ed è stata fatta questa azione al Campidoglio, secondo me estremamente importante. L'impronta, seguendo i blog, i dibattiti eccetera, che sta venendo fuori per quel corteo, mi sembra che miri esattamente a questo, cioè proprio perché finalmente si è arrivate a dire che la violenza contro le donne è soprattutto nelle case, ancora una volta cercare di coprire questa realtà dicendo che la violenza contro le donne è agita dagli immigrati non deve passare, non può passare, e quel corteo forse oggi ancora più forte lo deve urlare, ma io sono certa lo urlerà. Cioè io mi auguro anche che lo striscione d'apertura, oltre a tutti gli slogan eccetera, mirino a questo, perché la violenza non ha nazionalità, la violenza contro le donne è violenza di uomini italiani, di uomini stranieri, comunque sempre di uomini contro le donne, che siano italiane o straniere non cambia nulla, perché non esistono donne di serie A e donne di serie B, esistono donne che nella situazione che c'è oggi in Italia hanno più o meno diritti. Se sei una cittadina italiana hai dei diritti, se sei invece cittadina di un paese straniero ne hai meno, ma questo è un problema delle nostre istituzioni, insomma. Io infatti mi auguro anche che ci siano molte donne straniere in questo corteo e purtroppo non le sento ancora parlare. Oggi leggevo un articolo, perché poi sai che l'informazione in Italia funziona con il voyeurismo, no? Ormai è fatta più di pettegolezzi e di voyeurismi che non di informazione vera e propria, e alcuni giornalisti, se non sbaglio del Corriere, sono andati in Romania dove sta la madre di quest'uomo, di questo bastardo che ha ammazzato Giovanna Reggiani, e lascio perdere i termini di questa intervista che le hanno fatto, perché veramente sono pietosi, ma la cosa divertente, secondo me l'unica cosa seria che è emersa in tutti questi giorni, è che mentre loro stavano dentro questa catapecchia a farle l'intervista, una ragazzetta rom che abita lì in questo quartiere, in questa favela, ha incominciato a prendere a calci la loro macchina dicendo: brutti bastardi, non venite a rompere le palle a noi quando siete sempre solo qua per scoparvi le bambine. Cioè ha detto una verità. Sì. Sì, direi, ha detto una grande verità, e l'ha detta una ragazzina, appunto come al solito, no? Chi dice che il re è nudo è sempre chi non ha filtri, e in questo caso questa ragazzina secondo me ha avuto una reazione forte di autodifesa sua come donna e di autodifesa sua come donna rom. Sì, certo. Comunque continueremo a parlare di questo tema e magari ci risentiremo anche con te, Nicoletta, se ti va, perché pensiamo che sia importante costruire insieme, che anche Facciamo Breccia contribuisca, le donne di Facciamo Breccia contribuiscano alla costruzione di questo appuntamento del 24. E quindi per adesso ti saluto, ma spero di risentirti presto. D'accordo, va bene, un saluto a tutte. Ciao. In questi giorni, come dicevamo con Nicoletta, abbiamo assistito alle bite, alla doppia violenza che ha subito Giovanna Reggiani e che hanno subito tutte le donne che hanno subito e subiscono violenza. Una violenza fisica atroce e poi anche la violenza di essere assunta a pretesto per decreti come quello sulle espulsioni, un decreto antiromeni che se non... lo definiamo fascista, dobbiamo definirlo almeno fascistizzante, per dirlo con le parole di parlato ieri sul Manifesto. Eppure la violenza sulle donne è quotidiana, ovunque. I nomi di queste donne che vengono picchiate, massacrate, uccise, violentate, sono nomi italiani e non, come i nomi dei loro aguzzini. Eppure i dati ci dicono che in Italia viene uccisa da un uomo una donna ogni due giorni. Ci dicono che oltre 14 milioni di donne italiane sono state oggetto di violenza fisica, sessuale e psicologica, che la maggior parte di queste violenze arrivano dal loro partner, circa il 70%, o dall'ambito familiare, che oltre il 94% di queste violenze non sono mai state denunciate, che 1.400.000 donne ha subito uno stupro in Italia prima dei 16 anni, che la maggior causa di morte per le donne tra i 16 e i 60 anni è la violenza maschile. Tutto questo si colloca ovviamente nello storico dominio di un sesso sull'altro, nel sistema di potere che domina il mondo e che si chiama patriarcato, basato su pilastri come il potere economico, rafforzato dall'imporsi del neoliberismo negli ultimi 30 anni, come la famiglia, la chiesa. La Chiesa, ecco, che qui in Italia, in tutta l'area cattolica, nel Mediterraneo, ma anche in America Latina, nelle Filippine, adopera la propria forza per impedire percorsi di autodeterminazione delle donne, si oppone all'interruzione di gravidanza, alla contraccezione, al lesbismo, ma soprattutto, prima di tutto ciò, lo fa con il tentativo di perpetuare in eterno il sistema e la famiglia patriarcali. Tutto questo ha una profondità storica che conosciamo bene. La Chiesa, fin dal suo impiantarsi, fin da quelli che ha voluto chiamare padri, ha sancito l'inferiorità e la sottomissione della donna agli uomini. Ne ha ridotto gli unici modelli possibili a vergine o santa, oppure a puttana e strega. Ne ha fatto la peggiore incarnazione del demonio in terra per impedirne la liberazione. E da qui sono venuti i roghi, gli esorcismi, l'incatenamento al ruolo di fattrice, di schiava, di padre e di mariti. L'apparato e l'ideologia della Chiesa Cattolica, che da sempre vuole relegare la donna al solo compito di madre e moglie, alla cura e alla famiglia. Questo un esempio fulgido è stato il Family Day, che si è svolto il 12 maggio scorso, ricorderete, che ha celebrato in maniera sfarzosa la famiglia intesa come uomo, donna, bambine, come unico soggetto sociale legittimato a esistere. Una celebrazione questa che è stata piena di ipocrisie, che si è basata sulla santificazione della famiglia patriarcale, che storicamente è il fondamento della divisione sessuale dei ruoli e dello sviluppo di relazioni fra i sessi basate sul potere e sul possesso, e esclude tutti gli altri soggetti che fanno scelte diverse. Questa famiglia è la prima causa di morte delle donne. È sulla morale cattolica che si basa l'idea della centralità della famiglia, che diventa una sorta di luogo sacro e quindi intoccabile. All'interno della famiglia niente e nessuno può entrare. Da qui nasce il silenzio sulla violenza operata da padri, fratelli, fidanzati, una sorta di omertà sociale su crimini efferati e di massa, per mantenere intatto un sistema di oppressione che si pretende naturale, cioè la famiglia. E questa non è altro che la logica dei panni sporchi che si lavano appunto sempre in casa, sempre in famiglia. La Chiesa Cattolica tradizionalmente ha esaltato il sacrificio e la soccombenza delle donne ai capofamiglia. È così che la condanna degli eccessi, di quelli che sono stati detti eccessi, dei mezzi di correzione di questa violenza, si è mantenuta sul piano esortativo. E comunque la finalità è sempre rimasta il mantenimento dell'unità familiare, anche quando questo ha comportato vistose deroghe ai diritti umani delle donne. Il clero è stato lasciato presentarsi come il presidio morale. I media presentano la Chiesa Cattolica acriticamente come referente per la legalità e la moralità pubblica. Pare il clero come presidio morale indica per le donne il ritorno a ruoli decisamente contrastanti con le conquiste femminili che fra l'altro la religione di Stato considera immorali. Pare che proprio sulla salvaguardia femminile l'assenza dello Stato e la presenza della Chiesa stiano giocando un nuovo patto di convivenza tra dimensione pubblica e dominio religioso. Il vero oggetto del contendere appare ormai chiaro nella discussione sulla laicità e dominio etico del Vaticano e la libertà femminile. È per questi motivi che noi di Facciamo Breccia saremo in piazza il 24 novembre prossimo per la manifestazione contro la violenza maschile sulle donne. Ma adesso, prima di andare avanti, Monica ci presenta un brano musicale. Concludiamo questa sezione della trasmissione con una canzone di Paquita La del Barrio. Paquita del Barrio, una cantante messicana che da 30 anni interpreta canzoni che rinnegano il sentimento machista. Una donna che è stata sposata due volte, che ha subito violenza in entrambi i matrimoni e che poi ha iniziato a fare canzoni proprio contro il sentimento machista e anche contro proprio i maschi, dobbiamo dire. Vi presentiamo Rata de dos patas, sarebbe ratto a due zampe, e facendo anche presente che spesso, cioè, capita che durante le sue appunto presentazioni lei fa molti concerti, preferisce questo mezzo rispetto alla vendita dei dischi eccetera, anche perché infatti i suoi dischi sono tutti scaricabili, molti sono scaricabili dal suo sito. Lei per esempio viene attaccata, ci sono proprio anche assalti, gli tirano cose e in genere appunto lo fanno i maschi. E DJ Lady è so me. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Siamo ancora qui dai microfoni di Radio Onda Rossa sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione di Facciamo Breccia, e questa appunto era una sorta di simpatico prefemminismo da sala da ballo che ci ha fatto molto piacere sentire. Le abbiamo anche interrotte in anticipo per darvi ancora due notizie, anche rubando qualche minuto gentilmente concesso da prove tecniche di trasmissione che stasera inizierà appunto con qualche minuto di ritardo per nostra colpa. perché appunto ci sono ancora due notizie che noi riteniamo importanti da darvi. Ma innanzitutto vogliamo dirvi che la prossima settimana, mercoledì prossimo alle 20:15, parleremo con Porpora, Marcasciano, una cara amica, una compagna, del suo libro Antologaia. E annunciamo così già da questi microfoni che giovedì 15 alla Facoltà di Lettere della Sapienza si terrà un incontro con Porpora 1977-2007, 30 anni dopo, in cui appunto Porpora racconterà la storia del movimento LGBT in Italia in un incontro organizzato dal collettivo Sui Generis. Detto questo, vi vogliamo dare una notizia di proprio calda calda. Come sapete, in Parlamento sono cominciate le discussioni sulla finanziaria, e oggi in Senato si è votato e bocciato un emendamento che voleva togliere l'esenzione dal pagamento dell'ICI per la Chiesa Cattolica sugli edifici a fini commerciali. Come credo che molte e molti di voi sappiano, infatti, la Chiesa da alcuni anni, cioè in realtà questa cosa va avanti dal 92 con delle interruzioni, ma poi è stata reimposta da Berlusconi con uno stratagemma, non paga l'ICI nemmeno sugli suoi immobili a fini di lucro, quindi su ostelli, alberghi, centro congressi, ristoranti, negozi di santini, eccetera eccetera. È proprio notizia di oggi sui giornali, cioè è successo ieri, che la Commissione Europea continua a mantenere alta la pressione sugli sgravi fiscali concessi dall'Italia alla Chiesa Cattolica, e ha inviato una lettera formale che chiede al governo ulteriori chiarimenti sul regime fiscale della Chiesa e di altri enti religiosi. Questa lettera prevede una risposta entro 30 giorni. Questo appunto oggi sui giornali, è successo ieri, questa lettera che è stata inviata appunto dalla Commissione Europea allo Stato italiano. Oggi in Senato un gruppo di parlamentari ha presentato un gruppo di parlamentari della Costituente Socialista, poi ce n'è stato un altro presentato dal senatore Turigliatto di Sinistra Critica, hanno presentato emendamenti perché questa esenzione fiscale venga finalmente, questo scandalo dell'esenzione fiscale che costa all'Italia 400 milioni di euro l'anno finalmente finisca. In questo emendamento è stato votato quello della Costituente Socialista, è stato respinto con 240 voti contrari e solo 12 a favore, 48 astenuti. I 12 a favore sono in ordine sparso, purtroppo, cioè nel senso non abbiamo visto una ferma posizione della sinistra, di nessuna sinistra. Infatti hanno votato a favore di togliere questo privilegio alla Chiesa Cattolica, che è talmente evidente che protesta persino l'Unione Europea, Turigliatto, due del gruppo socialista, Rossi del gruppo misto, Bulgarelli un verde, due di AN, un repubblicano, uno di Forza Italia, uno del gruppo delle autonomie e Furio Colombo. Tutto il resto niente, tutta Rifondazione Comunista si è astenuta, che purtroppo capiamo la buona volontà, ma astenersi in questo caso era esattamente come votare a favore, come si è astenuta gran parte di quella cosa che si vuol chiamare Cosa Rossa. La Gagliardi, a nome di Rifondazione, ha voluto farci sapere che per loro questo voto è costato molte difficoltà e l'hanno dato, cioè infatti non hanno votato sì, si sono astenuti per senso di responsabilità rispetto a una finanziaria su cui finalmente sono riusciti a accordarsi. Noi lo diciamo da questi microfoni, lo diremo con comunicati stampa e lo diremo nelle piazze, riteniamo che questo sia veramente scandaloso in un paese dove il precariato, la difficoltà economica, la mancanza di case, le pensioni miserabili affamano gran parte del paese, dove vengono espulsi, dove si decide di espellere chi non ha lavoro, si regalano 400 milioni di euro l'anno in questo modo alla Chiesa Cattolica, oltre a tutti gli altri di cui stasera non parleremo. Un'altra notizia ancora, prima di chiudere, se fossimo credenti ringrazieremmo Dio per aver tolto Don Benzi dalla strada. Siamo atee e quindi Dio non lo ringraziamo, ma vogliamo dire che non ci uniamo al coro di celebrazione e di santificazione per la morte di Don Benzi. Don Benzi era un violento antiabortista che ha organizzato per anni picchetti davanti agli ospedali, per esempio di Zola Pedrosa, al Sant'Orsola di Bologna, di Ancona, picchetti che venivano organizzati appunto in gruppi di lugubri individui armati di rosari, di cartelli con foto di bimbi, di cicciobelli macchiati di pomodoro ovviamente per il sangue, e picchetti in cui gruppi interi si scagliavano contro le singole donne che stavano raggiungendo le porte del reparto di ginecologia. Questo era Don Benzi. Don Benzi era anche colui che si è arricchito e che ha arricchito la sua associazione Giovanni XXIII grazie a quello che lui chiamava salvare le prostitute dalla strada, una tratta al posto di un'altra tratta, noi crediamo. Di fatto comunque queste donne non ci sono sembrate avviate a un percorso di autodeterminazione nelle mani di Don Benzi. Ci è molto dispiaciuto vedere che all'indomani della sua morte tutti i giornali hanno celebrato Don Benzi, e anche per esempio dalle pagine del Manifesto si è lasciato che il saluto a Don Benzi fosse scritto da un altro prete, il sacerdote di Santa Maria in Trastevere, che ovviamente lo ha encomiato come grand'uomo. Che dire, spesso anche i compagni sbagliano, ma purtroppo sbagliano quasi sempre sulle stesse cose, e questo veramente ci dispiace molto, perché Don Benzi non era un bravo uomo. Con questo noi vi salutiamo e tratteremo ancora del tema di cui abbiamo trattato stasera, cioè della manifestazione del 24 e della violenza sulle donne, ma prima di rimandarvi alla nostra trasmissione vogliamo rimandarvi al martedì autogestito da femministe e lesbiche della prossima settimana, che come sapete da queste stesse frequenze trasmette dalle 17, dalle 20 uno spazio tematico su donne straniere e doppia violenza, strategie di autodifesa legale, e poi vi rimandiamo ancora alla nostra trasmissione di mercoledì prossimo sulla Breccia dell'Onda alle 20:15 su Radio Onda Rossa. Vi lasciamo con prove tecniche di trasmissione e ma non prima di presentarvi la nostra sigla, la cumbia dei monaci. Alla prossima. Vamos a bailar, vamos a bailar.